Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo della tempesta perfetta 2030, la tempesta perfetta, come sopravvivere alla grande crisi, è il titolo del libro di Gianluca Comin. Buonasera Comin. Buonasera, buonasera a voi. E di Donato Speroni. Buonasera Speroni. Buonasera. Gianluca Comin, direttore delle relazioni esterne dell'Enel, è stato presidente della FERPI, un esperto di comunicazione e di economia. Donato Speroni, giornalista, ex dirigente di Eni e Istat, è da 50 anni nel mondo dell'informazione e insegna economia e statistica presso l'Istituto della Formazione di Giornalismo dell'Università di Urbino. La tempesta perfetta è un nome che già risuona, è risuonato anche in riferimento a quanto è avvenuto, sta avvenendo per questa grande crisi finanziaria. Qui si parla del 2030. Gianluca Comin, come vi è venuto in mente di scrivere un libro sulla tempesta perfetta e cosa vuol dire tempesta perfetta? Ci è venuto in mente leggendo uno studio inglese di John Beddington, che è incaricato dal governo inglese, analizzando tutte le diverse variabili che da qui al prossimo futuro avrà l'umanità di fronte, dopo magari ne vediamo insieme quali sono, ha fatto uno studio intitolato La tempesta perfetta. Da qui siamo partiti con Donato a verificarne in qualche modo i contenuti e a attualizzarli a quella che era già una tempesta perfetta, la crisi finanziaria, una crisi, se vuoi, del capitalismo, una crisi del mondo energetico ambientale. Ecco, quindi un insieme di elementi nel libro sono illustrati molto bene, dalla popolazione all'energia, alla governance mondiale, ai comportamenti delle persone, al clima, agli effetti appunto di questi cambiamenti climatici che abbiamo visto anche nei giorni scorsi, che cosa può avvenire. Allora, Donato Speroni, iniziamo un po' dall'inizio. Perché 2030? Che cosa si prospetta nel 2030? Quando si guarda a questi scenari, ce ne sono tanti, però quello di Beddington è uno dei più attendibili, quello che colpisce è che curiosamente il futuro è visto in due livelli diversi. Cioè, se si guarda al 2050 sembra che tutti i nostri problemi attuali saranno risolti. Semmai ce ne saranno altri, di quale sarà il rapporto tra gli uomini e le macchine, se gli uomini non delegheranno troppo potere alle macchine, come useremo anche dei pezzi di macchina nell'innesto del nostro corpo. Però questo è il problema del 2050. Tutte queste nuove tecnologie, le cosiddette tecnologie green, genetica, robotica, informatica, nanotecnologie, che cambieranno la vita dell'uomo nei prossimi 40 anni, però non saranno sufficienti per risolvere i problemi che ci stanno capitando addosso. Quindi non è detto che sia nel 2030. Ma la somma dei problemi urgenti che abbiamo di fronte entro il 2030 ci creerà delle situazioni che ci imporranno delle sfide politiche e comportamentali molto grosse senza che la tecnologia sia in grado di risolverle. Ecco, il capitolo sull'energia è intitolato Energia, non è facile liberarsi dai fossili, cioè dal petrolio, dal gas naturale. Gianluca Comin, quali sono le prospettive dell'industria energetica proprio in vista del 2030 e saremo in grado di liberarci dai fossili? È proprio questo, le analisi che più autorevoli oggi mostrano che ancora le grandi economie in via di sviluppo poggeranno su carbone, su gas, su olio lo sviluppo energetico dei loro paesi. Certo, è in grandissima crescita l'utilizzo delle energie rinnovabili e quindi idroelettrico, eolico, fotovoltaico, geotermico, però saranno ancora minoritari rispetto allo sviluppo che invece il carbone in particolare avrà in questi paesi. Questo pone ovviamente un problema enorme di contenimento delle emissioni di CO2, che non è un inquinante ma comunque è un clima alterante, e qui entra il tema della tecnologia. In buona parte anche l'Europa, e mi collego a quello che ha detto Donato, pone al 2050 un mondo nel quale si potrà avere energia elettrica senza CO2, al 2030 ancora avremo molta dell'energia che produrrà emissioni di anidride carbonica. La ricerca sta nella direzione della cattura di questa CO2 e quindi dell'utilizzo dei fossili con una cattura al camino della CO2 e poi confinarla nel sottosuolo. Ecco, Donato Speroni, quanto possono incidere i comportamenti individuali in questi cambiamenti, in queste trasformazioni, in questi rischi che abbiamo anche sul fronte energetico? Dobbiamo sperare appunto nella tecnologia o una governance globale capace di risolvere i problemi, o contano anche gli stili di vita delle persone? Donato Speroni. Direi che dobbiamo sperare e contare su una somma di fattori. Per esempio, nel mondo ci sono ormai centinaia di migliaia, se non milioni, di associazioni che si occupano di vita sostenibile e di vita etica. Ognuno lo fa a suo modo, naturalmente, non c'è un leader di tutto questo movimento, però è un movimento che non ha mai avuto una dimensione tale nel mondo su altri obiettivi in passato. Al tempo stesso si muovono le imprese, la cosiddetta responsabilità sociale delle imprese, che in passato poteva essere una specie di forma pubblicitaria, di schermo, invece adesso sta diventando una cosa di sostanza, anche con accordi con le organizzazioni non governative, le organizzazioni ambientaliste, per cambiare i comportamenti. Ovviamente tutto questo non basta se non c'è una governance. Purtroppo non abbiamo e non avremo un governo mondiale, però dobbiamo puntare molto e dare importanza ai faticosi progressi che si svolgono nei rapporti tra i paesi, e anche dobbiamo avere una politica nazionale che guardi di più a quello che succederà in futuro. Faccio un esempio, l'Olanda, in vista dell'aumento dei mari, sta già rialzando le dighe. Molti paesi europei hanno un piano di adattamento al cambiamento di clima. In Italia questo piano non esiste. Ecco, il capitolo sulla comunicazione è intitolato La comunicazione fattore critico, quindi anche in questo senso, in questa prospettiva, come diceva Donato Speroni, c'è un problema di informazione e poi di scelte conseguenti. Gianluca Comin, perché la comunicazione è un fattore critico? Fattore critico, ma anche fattore abilitante. Noi riteniamo che le grandi scelte che hanno di fronte i governanti del mondo sono così complesse, così importanti, che non possono prescindere da una fortissima costruzione di consenso da parte delle opinioni pubbliche. Opinioni pubbliche che, qua il fattore critico, sono sempre più autonome nella loro formazione di opinione, utilizzano mezzi che, come dire, bypassano i grandi mezzi di informazione attraverso Twitter, attraverso Facebook, attraverso i social media, e quindi abilitano le persone a crearsi delle posizioni antagoniste, difficili da governare, però se governate in maniera intelligente, questi mezzi consentono anche di allargare l'area del consenso e quindi di poter consolidare decisioni più forti da parte dei governanti. Quindi una partecipazione reale, una prospettiva in cui ci sia qualcosa di costruttivo. Mi sembra che in questa direzione vada anche la conclusione del libro, una speranza new global, una nuova globalizzazione e una nuova partecipazione. Qual è allora quello a cui dobbiamo prepararci in vista del 2030? Donato Speroni. Ma certamente, diciamo, questa prospettiva new global, cioè non è più un problema di chiudersi rispetto a una globalizzazione che non possiamo evitare, bisogna però giocarsi le carte della globalizzazione nel modo più positivo, tenendo conto di quelli che saranno i grandi cambiamenti che ci saranno nel mondo, che non sempre valutiamo fino in fondo, a partire per esempio da quelli demografici. Se pensiamo che nel 2025 l'India supererà la Cina, ci rendiamo conto di come il mondo sarà diverso, e l'Europa potrebbe continuare a avere un ruolo centrale anche per la sua posizione geografica, strategica, perché dall'Europa è possibile comunicare nell'arco della giornata sia con l'Estremo Oriente che con l'America, mentre invece rispetto a come è fatto il mondo dalle altre parti questo è più difficile. Quindi comunque, se noi riusciamo anche a sfruttare questa posizione fortunata, positiva che abbiamo, questo potrebbe anche essere un elemento importante. Allora, per concludere, Gianluca Comin, possiamo sperare di essere come europei una soluzione e non solo un problema? L'Europa ha due vantaggi. Primo, ha già fatto una parte di questo percorso, pensiamo al tema dei cambiamenti climatici e l'impegno che ha preso già al 2020 di ridurre emissioni e aumentare le rinnovabili, il contributo ai rinnovabili, ma poi anche la centralità dell'Europa, che ne ha fatto poi, se vuoi, la culla della civiltà tra il mondo orientale e il mondo occidentale. Quindi io credo che un po' per cultura, un po' per dinamismo, un po' per centralità geografica, l'Europa giocherà ancora un ruolo molto importante anche in questo futuro, nella governance del prossimo futuro. Grazie mille Gianluca Comin e a Donato Speroni. In questa prospettiva, appunto, non forse non ottimistica ma sicuramente costruttiva, abbiamo parlato del libro, appunto, di Comin e Speroni, La tempesta perfetta 2030, come sopravvivere alla grande crisi, edito da Rizzoli. Sono 238 pagine, costa 18,50 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, così come ringrazio Peter Bascapè in regia, Luca Cremonese, Stefania Tagliaferri in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie, l'appuntamento con Economia in Pagine è per sabato prossimo.